parte. Buonasera. Benissimo, Giomari, benissimo. Ragazzi, mantellino piccolino. Benissimo, bene, bene, e tu? Funziona, funziona, Giomari. Ma cosa c'è, un'antenna costruita, come con l'antenna del tetto, cos'è? No, c'è l'antenna. Già arrivi già, penso che mi senti bene anche a me. Va bene, era sempre piazzata. Solo che c'era il vento, ma mi aveva piegato un po' l'estate, ma adesso già mi sa posto. Sì, ce l'ho già 3 anni. Più di 3 anni ce l'ho. E già, va bene. E avanti, guardi se scorra tu. Andava bene, cazzo, uno, cioè, se no, boh. allungava, perché come ti ha già detto, ma che c'è un po' di travaglio, vediamo un poco puro. E vedi, altri sono entrato qua, per fortuna. Stavamo cercando una persona, quella è fortuna, Non è facile entrare in occhi, che su cui. Già lo so. Io mi imparo a travagliare. Non è che. No, ma non è fatto di imparare, che. Quanti bigliani gusti, capito? Ho avuto i costi, dai, diciamo la tutta. Hanno parlato bene di me, hanno detto che so fare il mio lavoro, lui già fa l'autista, capito? Sembra così, però non è facile, nel senso, anche io sono giramente di coglioni, il minimo sgarro ti viene a bordi, però devi baciare un capo, si vuoi travagliare e via. Cazzo, per niente, per puro per Gavino, l'autista per 22 anni c'è già. Okay. Sono parenti, Però parli solo di biglia a botte, biglia a botte, anche se il cugino. A botte si prendono gli altri, ma le persone. Non è, io purtroppo sono anche in un periodo difficile. Non è che li farei già assai, no, tutti i personaggi. Compreso, anche alla seconda di basso, non mi ha fatto un cazzo a me. Perché dico che si prendono gli asini a tutti, non le persone. Sono un po', già mi sto trattenendo, mi sto al lavoro perché sono purtroppo incazzato il gioco. Immaginiamo che non è periodo buono. Anto, non è periodo buono per nessuno. Aspetta una seconda, arrivo subito. Via. Avanti. Chi è avanti? Che fa rumore. Chi è che fruscia? Attenzione 10, chi è che fruscia? Ora, ora, ora, Antoine de Pedignon, se mi copi da qua dal massingo della ombre, ombre, ombre. E avanti. Com'è? Fatta la nanna. Le drummi due, mamma mia. Ha più fatto la bene a me. La saggemo. Qui sta scendendo. Gappa, gappa. Come la fai? Insalata o con le uova? Usci la magno. Aglio va, come si dice, mamma intenda a me. Un po' caro doloroso, e ya da fallo che è buono, tu dai tua bella roba in mania per ora qui e andare dai e riprendi in bagno, va, dammi un minuto, hai detto gentile, ma tu la tua eri facendo un bordello. Oh, bene, cazzi, no, che mi girava le scatole, dove funzionava evidentemente, è proprio un problema che quella parte che bisogna dare l'alimentazione giusta, se no non anda. Ma quale? Questo o quello piccolo? Questo qua. Ah, questo vabbè, a parte qualche fra, vabbè che è freddo, l'ho appena acceso, e quindi no, ma però siamo, vabbè, a parte quella chiavicina che hai detto, dai, andiamo anche di questa. Perché bisogna dare l'alimentazione giusta, forse. Cazzo, non riuscivo a farlo andare. E invece l'ho attaccato con l'alimentatore a 30 ampere, sta andando. Era piccolino quello là, dai, sicuramente era mancanza di alimentazione. Sì, ha funzionato, qui sta andando, però da voi, evidentemente era dopo poco. Sì. No, no, l'ha fatto anche a casa, lo facevo. Lo facevo anche con questo qua che ci ho attaccato. Vabbè, vecchio è pure colui. Mi sono messo l'acqua per la pasta, un pochettino di pasta burra e bietole stanotte. Mi ha messo lì su rimania. No, a cena leggero. Lì mi sono qui a cominciare a preparare pure tanti tramezzini con la pomaccia. No, no, basta, dai. Sennò da voi un casino. E piano piano. Allora, leggero, canuti. Sì. Vabbè. Allora, fra poco entra Gianni, dove c'è entrato? Di solito Gianni a quest'ora entra. Oh, ma devo prendermi, ricordami che devo prendere, quindi a pigliarmi si chiama, un caffè o pasta sigaretta elettronica. Caffè c'è, dovrebbe essere. Perché adesso mi stavo facendo tutti così, capito? Quello più largo non è come quello tuo, quello più largo. Infatti, è diverso dal telefonino, ho provato anche quello della cassa Bluetooth, niente, vi vuole su io Bluetooth, mano, non è minore. Il mio telefono ce l'ha già così, No, il mio è più piccolo quello del telefono, vabbè che è vecchio, non è che sia nuovo. Però da pennaggio 3 o 4, ma culo non andava. Quindi devo arrivare la sigaretta, poi dammi il risuglio, poi dammi il risuglio. Sennò ho detto di sbagliare. No, la peccocia, come quello che ho io. Io c'ho il telefono, ce l'ho così, non ce l'ho come il tuo. Anche tu ce l'hai come questa, Lorenzo. Lo steno che è più largo, non è piccolo. Io c'ho quello piccolo nel telefono, capito? Sì, sì, esattamente, è più largo. Ma è importante che si piaccia. E se no, il dottor Reghiper ti dico, ascolta, fa una cosa, ma... Cosa mai dato? Questa è la volta a caricare la cosa, due pinche la carichi. No, si trova dovunque. Perché i cellulari sono così ora, cioè no, non è più come una borsa. Si acciappa di voi, si acciappa, non vedo. Ma non prendi i nomi. Ha sempre tutta sera. No, si acciappa di voi, si acciappa. Il cellulare era banani, no? Tutti i banani, i cellulari sono fatti così. Kappa, andava vecchio. Ma tu già preparando a mangiarti? Kappa che sì. A me li dai 3 minuti di organizzo e sono correndo. E io va. Non ti preoccupare tanto, va. A mezzo la barita. Perché non ho fatto ma come renda, ma mai fatto venire un lodango. Dai, dai, è tempo di farmi due cose se per arrivare. Comunque sia, ma cos'è, per la pena più selvatica rimane quella di campagna? Beh, la di campagna era più buona che selvatica, non è che si è coltivata. La si è coltivata rimane sciapita. Più saurita che sa. Sa di campagna è più saurita la sera. Tu sei abituato a essere coltivata, no? Come ti sa ora rimane più selvaggio, no? Ma non ti credi assai, no? Selvaggio. Come se l'hai detto coltivata, però che appena più accentuata, più sa ora, più buona. Ma no che si sta coltivata addossi, non ha saura assai. La sera scappata in campagna è la migliore di sé. Era più sana pure. E allora ci andiamo in là. E da poi da che la tazza vi sei cotta gli attina bici cosa ora che ti massa cosa? Già fatta raggio. Ah mamma mia, appena di massa asciutta oggi. Zia, ti andava. Perfetto. Ehi, a gappa, dai, dammi 2 minuti che ne posso fare cosa pure al volo. Tanto non c'è di cucina, non aggiungo. A pranzo voglio mangiare, ho mangiato bizzanti. Ah va, sì, da, lì sì, lì da. Va bene, fai. Atto! E questo non è quanto? Benissimo! Ah, allora anche questo già funziona. Cappa. E allora, cosa ci racconti il bello? Va bene, oh, Mario. Va bene! Ai sei, che lì no. Pronto, vado, sta. Aspetta un attimo, Giomari, che mi sta chiamando mio figlio. Cosa c'è, amore? Cosa c'è? Non senso, già. Faccio il cappocciato adesso, guaccio. Piano piano sta andando avanti, meglio così. Già è bravo, già. Ciao, Giomari. Giomari. Ehi. Buonasera, come va? Luca, tu sei? Ehi, Giomari. Ehi, ciao, Luca, buonasera. Per un po' ci sentiamo, fa piacere, dai. Ah, tutto bene, bene o male, eh? E voi? Allora, si va avanti, si lavora, Giovanni. Adesso mi sto rilassando un po', tra un po' devo uscire, è un compleanno, devo andare. Antonio, che fine ha fatto? Antonio! Ehi, Antonio, si ha fatto il dato con un grecchellino, no? Lo. Va bene. Ho voluto accedere a vedere un po' chi c'era, ma... E c'era Antonio, c'era solo. Ma non ne voglia più lui, non ne voglia di più di chiacchierare. Lo so, immagino, anch'io oggi Mari poco e niente lo stesso, giusto così, mi... poi ho di passaggi, ma non ho tempo, poi alla fine poi mi riposo e a quell'ora quando mi sveglio non c'è più nessuno, capito? No, io lo accendo sempre, tu accendo le sfere, però ascolto, però mi fa di parlare, capito? Non lo so perché, mi è passata la gara di parlare, capito? Però ascoltare quando c'è qualcuno già ascolto, capito? No. Ma tu stai lavorando magari, per cui non hai voglia magari perché sei stanco, così è. Siamo in due, Giomari, siamo in due, lui fa, pazienza. Infatti mi piace, mi vesto, vado al vostro compleanno. Va bene, un attimo il telefono, Olu. Ehi, Giomari. Sta venendo gente, mia figlia, dai, chiudo. Sentiamo, ho fatto il piatto di sentito, dai. Ogni tanto a me non ci sentiamo, molto su me, sono ancora in casa anche noi. Ciao. Ehi, Giomari, ma sono prima chiusuro. Ciao, Giomari, siamo entrati, già siamo in là, in là, al baracchino, la sera, pomeriggio, fatto due chiacchiere, entra. Che dipende dall'orario, dai, da parte mia. Ma boh, ciao Giomari, buona serata, stammi bene. Fatti sentire ogni tanto, dai, ciao. Ok, ciao Luca. Buonasera Luca, come la va? Attento Luca, stai nel cuffio Giovanni da questa parte. Va riuscito a fare le facciate, giù qui. Attento Antonio. Avanti. Via. Io. Bello forte. Aspetta. Profitando. Eccomi. Sei che sei cante. Antonio. Eccomi, sì, sono rientrato. Ah, ce ne è entrato uno che non mi spacca la, questa roba qua. Inizio com'era, bello piano piano. E chi è che è entrato? No, non lo so, sono schiacciato, ma è entrato tutto fondo scala qui, era. Inizio. Bello, bello. Gianni non c'è? No, anche uno, prova a chiamarlo, ma Gianni. L'ho sentito poco qua, l'ho sentito. Buonasera, già non credo che arriva a fondo scala già. E allora, Gavino, buonasera. Da qua ne sta uscendo, mi, da paura. Ciao a tu, ti arriva a fondo scala perché ce l'hai vicino a te. Pure dai in bocca non ti credi che sia, gli mancano. Esso è bello, bello, easy, mamma mia, proprio a fondo scala, bello piano. Andù, dai, è qua, sono, dai. Sta in AM, siamo a cioè, cioè, cioè, cioè, cioè, vai, vai, vai. Certo. No, ho capito, non so. Già compreso io, abbaccia la manipola. La manipola, cambio. Ciao, buona serata, dai, dai, vi ascolto, vi ascolto. Eia, bella, forte, gatta. Visto che... arrivavamo più forte. E poi lì, in zona di Cidu, arrivi a fondo scala. Poi anche non fa una piega, allora vogliamo fare una piega. Mi affonda, arriva la lampa. Visto che... se ce l'hai di fronte. Ah, ok, ho capito. Gavino. Gavino, Sì, ciao, buonasera. Dai, ho messo tutto l'originale. Vai, Antu. A Giovanni gli arrivi fortissimo, gli arrivi. Molto, molto forte. Anche qua non scherzi, Antu. Proprio quasi un kilowatt. Complimenti, Gavi, esci come. Bello, bello, chiaro, chiaro. Sì, sì, sì, no, vabbè. Sto utilizzando il 6009 e l'amplificatore, la Meritron, l'811, quindi erano quasi un kilowatt, però adesso ho spento tutto, adesso sto andando con 6 watt, ho abbassato prima, gli ho dato, erano 25-30 watt di pilotaggio e lui sta parlando intorno al kilowatt. Adesso sono con 5-6 watt. Antu, vai di nuovo. Cappa, e gli ha preso cabezzato via ancora, che da fondoscala, Aspetta, sono con talore da tirarlo, no? Ma che? Era una pigenda di tutti in Oga. Tipo di boppi. Dai, sto cucinando, sentiamo dopo, vai. Vai l'altro amico. Antu, buona serata a te, al ragazzino. Buona serata anche all'altro amico. Vai, non mi posso trattenere. Vai di nuovo. Ciao Gabri, avanti Giovanni. Giovanni. Scusate, stavo parlando con Lucio Momoso al panino. Buona Gabri. Guarda mia cucciolata che bigliato in chibi. Cazzo un chilo faccio va via a me. Antonio, ho dovuto abbassare tutto che ne stavo uscendo dalla casa, ne stavo uscendo. Oh, yeah. Fatti dire più dopo, senta, come sto arrivando io. Senta, glielo dico. Cioè, abbiamo migliorato da ieri, dai. Sì, ma che cosa, io ti sento, ha cambiato dal giorno alla notte, è cambiato. Ti ha mangiato, Ayanti? Sto preparando. Capa, io mi metto un finisco, me. Sto mangiando il panino, mi ha fatto. Capa. Ma Gianni non è entrato. Attenzione, 10. Attento Antonio, leggiti il messaggio. Giovanni. Cappa. Com'era poco fa la radio? Era buona. Gavi, Oia, non puoi capire come... Oia, me ne stavi uscendo... da questa scatola ne stavi uscendo, veramente. Esci ogni cosa bella. Sì, io. Stavo provando. No, non la metto mai. Non la metto mai perché è un disastro. Ma anche qua arrivi forte. Ma ti è cambiato l'antenna? A proposito, poco fa te lo volevo chiedere, come sto uscendo? Meglio di ieri? Ieri hai sentito come mi sono abbassato di coso? Ma va che quasi oltre fondo scala, oltre. Gavi, abbiamo cambiato, Antonio ha cambiato un po' di roba. No, l'antenna è sempre quella, sta va bene. Da più la cambieremo anche quella, adesso è giusto, sta va bene anche così. No, abbiamo cambiato l'apparato, dai, questo è un po' più... quello là era 4, questo è 8, dai, stava meglio, tu cosa ne dici? Nella radio, bella, complimenti, bravo Antonio, queste cose ho maestro, queste cose ho maestro, buona, buona, buona. Poco fa, dai, stavo utilizzando un amplificatore che non lo uso mai, non lo uso mai, è giusto farlo girare, però devo organizzare, a chi hanno attacco ISO è un disastro. Quello è un disastro, avesse staccato e ciccia. Che va, quello lì, quello va a un kilowatt, quello va da 800 a un kilowatt di modulazione. Poi a Davide, io non ho mai sentito una cosa simile, veramente. E vabbè, io ero anni che ormai non entravo più e veramente, non ho mai visto una cosa simile, veramente. Bella, bella, bella, complimenti, Davide. Voi dite lì, le valvole, quello è un valvolare, stava spingendo, dava da 800 a kilowatt in trasmissione. Vabbè, capì, conta che non sei molto lontano da me, quindi immagina come potevi arrivare qua. Davvero, uia, io che ci ho detto, cos'è questa cosa? Uia! dai. Va bene, va bene. Dai. Buona, sto cucinando, sentiamo dopo. Corrix per me. Antu. Vai, è pompa. Kappa, io sto mangiando, io il bambino, stiamo mangiando, ci sentiamo dopo. E allora buon appetito a te e al bambino. Dai, Antu, a dopo. Ciao ciao. Ciao, siamo a cena, ovviamente. Hai visto che c'ho ragione? Hai visto? E poi con il 68 è una carrata, è tutta un'altra cosa. Anche la componentistica dentro è un altro mondo. Poi quello che ha tirato in radio, quindi con una bomba. Ok, vado a mangiare. Andò, ma lo sto usando col CRT. Col CRT tirato a palla, proprio smanettato a secco. Potrebbe andare anche di più, perché gli sta dando 25-30 watt, e dopo lui accetta fine a 70 watt e niente, in AM da 1 kW e 2, però in FM da 1 kW e 2, però in AM non ce la fa questa radio a tirare la palla. E va bene, dai. E così, gli ha dato la tenda, lo costruirà. Ma tutto la lampigiata di vari in cucina. Ciao, vanto. Appa, dai che mangiamo noi, ci diamo dopo. Ia, buona cena, ciao Antonio, ciao Gabriele, vai Gian. Corex per me. Antonio, ho mandato un messaggio, leggilo, ci sentiamo dopo. Miau! Oia, poche mezzo rubiciamo a parti. Oia! Sono fabbricanti, non so cos'è, russo, non lo so, mi sono rivendi, non ne comprendo nulla. Da 4-5, c'è scritto, c'è la scala lì, non lo so. Ti stavo dicendo, ma io l'ho mangiato un po' questa sera, chi tu non mi mangi? Andava a rubare te, ma tu non hai giù con te su tutta Lea, se ti dà buono in freezer fa mangiare la cosa, andava a rubare te, sì. Ma no, vinnette, Lea, se la vuoi ragazzi la mangi domani, domani a merenda, ma la vuoi lampazzina, venne a lampadura, no, Galizia, ti fa una cosa, farà pigliare un poco di faramo domani. Sveglia, ok, allora domani vuole regolare a fare lì. Ma quindi è? Ah, se passate per l'arrivare, non ci faccio un paio di mani. Allora domani sarà per quello. Da farsi bene. Entra, vieni. Pure, pochi, e mamma, cosa mi comprendi tu, ma che donna? Che c'è un mambo? Era così buona, era. Ma non hai mangiato tu, non ti sei asciutta la sera? Chi? No, io me l'ho mangiata, a chi tu non l'hai asciutta? Ma l'hai fatto mangiare che si è comparata? No, mi l'ha giocata chi? Stasera, chi ti ha giocata stasera? Ha detto ma allora prova a vedere se ne magna e poi se non ha magnato. Beh, se tu però la pensi che fa insalata ti dici così ti rabbarri e sei ovvio dai tanto fa vira con due uvi che e fa vira frittata e tagliata a pezzaretti più o meno le possibili alla mano, ma così non si ne mangerà mai, la vedi strana intesa. È già più compreso via. Vabbè, domani fermo l'asparagi, nella mare con l'asparagi posso l'asparagi domani. Una capa, tanto domani mattina se c'è qui oggi, di un qualcosa. Chi ci ho visto, tanto allora di nuovo sono canonca. Figlia Ruggerati, Arbussi. Bravo Gianni, di vero, l'ha dato una sera in serata la messina, come se la vita si è asciugato, ma come lei non avrà questa barra? Cazzo, è ributi a buonia, non manco un disegno di braccio di ferro, nuda. Questa, manco un fulbo, vogliamo mangiare un parallelo, la gente, proprio un parallelo, così non se ne abita nemmeno. E allora, tu, cazzo, come te scrivi di Bobby, cosa mangiamo? Ah, sarà, da zia. Ah, te lo voglio abituare. Oh, la frutta già rimbiazzi, Chi c'è un andamacco? Si taccia a parabera? E ricordi, come ti già mangia, oia. Non ne ha più no. La frutta se la mangia, sicuro, sicuro, 100%. Ma forse chi c'è ancora, è minoretto, non ha ancora compreso bene cosa è. Ehi, lasciamo farli via, la bucchetta, va per assaggiarvi. Sei porchi, i porchi, cioè che come te dici, puccimi, come ti dice, la prossima volta prego di farmi assaggiabili, magari a voi gli piace ce la mangiamo. A me ti fa vita di due, Giova, anzi, non ci compreso da me di zegna. Ha detto, magari la voce la magna. Infatti malissimo, la mia non dura da due, no. E la vita assaggia la mamma questa per se ti piace. Se ti piace, mettiamo, cosa ne so, un pezzettino di pomodoro, se ti piace, e l'assaggi. A chi si vira buono di cuscini magari che è una nuda, di te cosa fa pure un lembra di un cagnolino una puzza. Cosa vuoi fare? Hai fatto così, tu cazzo di crano, Non funziona questa cosa. E se sono andato alla stufa. Ma ci sta, quei bambini a quell'età sono un po'. Però vabbè, se la mangiato un visto, bastava fare i due ciuffi di spaghetti e vedete, magari li aveva mangiati di più. Papà! Ah, ti arrivi a fare cosa, a volte arrivi, poi ti arrivi. Ehi, kappa, adesso Giovanni lo sento bene. Ui ui ui, sempre qualche problemino, magari qualche filo dell'attacco della radio o di Rugoso di Jack che PL259, ma si chiama? 58, non 59. 59 no, 90 bene. Vabbè dai, non lo so, che non me la mettavo. Comunque se c'è qualche filo che non è saldato bene, anche sono un po' difficilini da saldare se non è saldatore buono. Ah, sono tutte e due di bomboli biondi, faggio. Oh, ma è normale, vai, vado, ma la mazzata, ma sta a pigliarmene una. Ehi, a chi c'è di tu che vende le bombole anche? Io ando un deco. Il nero, è pieno, tornati si chiama a balle, perché c'è il freddo la sera. K, la ciuffetta si è sudata. Tutte e due la bui, tutte e due, casa manco una, ma che cosa me la mangiava a fare la doccia, la bagno di elettrica, avrà già fatto la chissà, da bui andrà a pigliarla, normale, una, non manco. E allora, se no, basta chiedere a qualche vicino se ne hanno qualcuno domani della ritorno. Mamma mia, una massa di randaggi, no? Che raga bellissima. Cazzo, murichi di una vecchia vigliata per fare i carri. Un colpo di un bombolaio è puro. Un ex bombolaio. Ehi, capa, ma sei più comodo da tu. E la puoi chiedere al vicino anche, alleluia. Alto, cazzo, un peccio è una vecchia vigliata, va, vizzino. Ma buone, a qua sopra me ne biglio una, non si buccava con lo freddo, no, che se la poi con un bicchino minore, cioè, devo fare un bagnetto, non me la mangiano, mi sa che c'è stufa elettrica, cioè, c'ho solo, non vado manco qui da qua, se no, consumava più poco, aveva attaccato vista, manco di idea, cosa, manco un poco di gaggio l'aveva fatto. Qualche scaldino non ce l'hai altro, qualche scaldino di quadrati bianchi che si muove in terra. Lo scaldino che rubagno. No, io poi disegno che due ad aria con la venturina, quello già scalda subito. Però Marasucci la sera arriva una tessura, cazzo va la rumi, con la nebbia, con i ventoli, Marasucci si infredda la casa dentro. Dimmi Gioffa, ti sto ascoltando. Eccola Reto, hai poi domanda al vicino, è tornato con la manica dei sauriti, bacca ritrai, Cora Reto. non lo so, tu magari ti domanda una cosa, ve la dai un culo, da poi ve la domandi tu, non le ho, mi è passato mio figlio, aiutato da Vito, non aggio, e magari ti verrà sotto lo zicco e se ne prende la beffa, bastardi, vici. Come si dice, lui è il ciubigliacco e la vecchia vigliacca. E già, se la piauta, vedi già cosa, e quando vuoi fare ti la dica, e no, quando vuoi freddo, vuoi freddo. Io da allora di ritinchi non mi sono cusarrato, ma beh, la vanno non sono mancati niente, di ciuba che non ve ne bisogna, sinceramente. Ciò come, però come si sciaffura, oia, mi sono potuto dimenticare di dare fastidio. Ma ti atteso un coso, lo scaldo bagno. Io faccio solo questo, cazzo sei un preso in onga, cazzo sei una dovagliana, che cosa devo fare? Vai, no, affanco, ma io non mi ti vuole musicare, boh. E giù che mi alzo, di nuovo mangiare un pezzo di bolfaccio, lui si farà dalla mangiare. Magari vuoi che mela, che pera. Freddo va, metti calze, e quando ti ne gaffi, ma dimmi tu. Freddo a ferri vanto, i gaffetti se ne ha cavato, no? Va freddo, adesso metti calze, c'è poco gonfio via. E non è la buccia a punire, non faccio di la buccia a ridi. No, faccio di quanto si chiama me. Adesso li metto quelle, le gommate li metto. Mi ha pirato via. Ma come non tanto non prendi di casa. Non rombo anche. Mi dimmi. Ma già avuti. Chi si senza botti può camminare pure in terra. Quanto ti fa una bombola nella stufa, Anto? Sì, attesa a tutti i canti di una ghetta. E vabbè, però già si fa che bene tutta la gamma, da quant'è da 15 litri la bomba. Non ne biglio mai da 15. E la cantura biglia, vi case nella stufa. A vedi, se no va tu fa di cucina niente a stagnata. Ho capito, ho capito. Perché quando è così devi avere sempre tipo una discorta compresa, così si viuda, vai l'altra e ti buchi la viuda e trabbi di lungo allora piena. Ma va cadendo un po' come visto quando bagno. Ma ci posso venire a presa in città che due giorni quelli più grossi. Qualcosa attende di più, andrà più. Cioè, ma cazzo, mai no, che se non la ruzza la bago io, però. Già lo so, già lo so. Siamo in un mondo di bastardi, in un governo ladro. Tutti i canti di radi a polvere di stelle. E sono tutti ladri e puttane, sono il tuo governo. Ma si vuole vegliare che ti scottare un muro. Vuole vegliare che scottare un muro, vuole che fa niente. Perché ti sta che schifo. Vero è giovane, il tuo governo, che se a me ne prendi sono tutti canti ladri e puttane. Cosa prende cosa? E chi fa ora che sono tirati di tutta polvere di stelle? Scusa già, che Giovanni ti piace più la bacchina. Vai tranquillo Giovanni, già se mi non. Se il buco arriva più forte. Bene, arrivo adesso, Ma com'è? Un quattro dormite arriva, 9:10 arriva. Qua. Pensa tu che è lontano, prima arrivi a 9, a 9:10. E a guani a parecchio, Stavo dicendo adesso. A meno che non hai ributti qualche cosa, se no navigava dalla cuzzina, la bomba la vai alla cuzzina. E cosa me ne capo, la bomba la vai alla cuzzina, e domani come ti godo la roba? E domani la nuova che figli la muove nella cuzzina, no? Ah, vai giù, c'ho passanucci, hai ragione. Ah, no. Mica, è già calda la camera, quindi non c'è problema. Momento mi arrangio un ghiaccio grosso. Un cazzo, state così caro. Meno tu caro scaldino, mi. Scaldando sta. Non tu caro scaldino, mi. Cos'è che fa via con il governo? Che sono tutti quanti ladri e puttane. E non solo, e poco basta ne riflessi bene male, puro. E no, bene a vedere, uccello a polvere di stelle. Allora, a chi cazzo? Io venivo un usano che sono rocco. A mai da vita che andano a fare conferenze, che a firmare che l'unione malefico, con lui ci fuga, cristallini sempre. Oi, oi, e da voi cazzo di nonghi, cazzo di nonghi, a vindini, cazzo di tutti i pareti di fracca. È vero, cazzo mio, vabbè, faccio qui che per la Meloni, poi per mamma mi ha passato avanti, una visione celeste, ma carità. Non sei un zio a bocchia, che non fumo però. Ma che, oia, canto a primavera, bussi a vedere nei cazzo di fiori da radisa, come si dice, questa vicia sotto la buca della figa. Tanta passa ingrassando il burro lo culo, da andare con letti, burro. Capi bene, siamo sempre noi, per carità, cazzo. Non sappiamo come sta, non solo, già arriva a fine mese, cazzo. Ma sì, un giovane in campagna, che hanno giù busto da tutti. Che dobbiamo fare a casa, che da burro comune non mi ha dato l'autorizzazione. Però capi tutti i gatti da regione, sovrintendenza. Tutto, a chi da burro è già mandato il BPR, Viuria e Dressari. Ed è una violetta, lui sì, con una vecchia casa anche 67 a Catartato. Cazzo, piazza nella Ruzzi, ma alla fine ho pagato tipo 200 euro di all'altro, di una cosa all'altra. E la prima bolletta dopo lo pagavo 18 euro, 19 euro. Cazzo, da poi ho cominciato 24 euro. 36 euro, 38 euro, trasporto l'IVA, l'inferito, cazzo va a fare quasi 60 euro, cazzo va a trattare un cancello di campagna, duro, aprile a salarlo con del comando, la massa ne è varia. Oh già, io questa 3 mesi fa, ma che dia, io sono qui a 3 anni, sono in Oca. La media era vista, lo massimo che mi arriva, ma lo più che mi arrivi tu era 110 euro, 86, 90, 84, ma ogni due mesi ti butti a buttare. E per me sai che ci abbatte, se non so, devi superare per forza le 200. L'ultima va 230 euro, e so che era sura, 45 metri quadri, oh Iulia, uno scaldabagno, un televisore, e il televisore e vabbè, la luce di, era luce, di lampadini, da, cucina. È un casino, perché anche se c'è lo scaldabagno che rimane acceso, va a ruder morta se si tuga, però... Cavolo, se chilo va se non i consumi e tu mai di sotto la pulina della bulletta, viene fuoco di IVA, trasporto, e la, infatti la causa, adesso gli ho fatto il telefono a babbo e l'ha detto, ma Daniela sei di tre cucchiaini che stai correnti, con un cambio articolato l'ha detto. E niente, l'ha detto, ma purtroppo sono le nuove direttive, non so come è, tutta una massa di ladri bastardi, cazzo. Ha telefonato pure, no, papi, che, ma l'hai spiegato, ma una persona che vive da sola così per 6 anni l'ha detto. E mi ha detto che se non il consumo c'è, è ok, vabbè, chi la paga adesso questa corrente? A chi non penso la venire consumata? Allora mi ha detto, non si preoccupi, te la raccogliamo in 6 mesi, è 230 euro, e l'ha giudito, vabbè, mi mandati 36 euro al mese a pagare i 200 euro e i prossimi 2 mesi cambi la paga, voi me la paghete a giudizio, ma io sono matto di capo. Ci sono manica di bastardi, ma non lo vedi che per speculazione in ogni roba, a voi ci dico cosa, d'ora mi ci dico il figlio, cazzo chi lo vedete con pellet a 9,90 ha detto promozione pellet 4 muri, più di 3 sacchi non era possibile. E uno l'ha scritto, basta con vaccati, e io gli ho scritto d'ora stasera, magna Dio! Mi ha comprato babbo a me nei miei bari a Ragona da rimani, e ne ha preso 2 e 2 e 4, a chi ne è giunto un amico suo, che era nel letto e l'ha detto, farò via zeri, figlia dei miei sacchi in più, e niente. Perché più di 2 sacchi a testa non se ne dava, non ha pagato 7 euro e 40 mi pare. Ma Rubelle che già? Rubelle. Oh già, allora tutti canti delle cose, tutti ci siamo venditi da giù, tutta legna ci sono legna va. Oh già, ma come arriva giù? Io vabbè faccio la siminea e la ciuffo a legna. Il proprio vuoi freddo freddo mi dà giù 2 pezzi di legna, attacco la motosega e fa lì fa un paio di chiso cappucci. Adesso se fosse i conti di un bel letto, io, allora non vivo più. Già con un travaglio sono casero, sono con campo di Iuia, con il mio. E anche noi ce l'abbiamo la stufa a legna, chissà, la vanno me la metto nordica, mi pare si giano. E babbo mi ha dato un po' di legna, la buca, però ma se si sente un bel di legna vivo male. Eh beh, oh, sempre ti manco però di un caminetto venivo, che un caminetto io, se comincia a pulire i trucchi di lento, ma si rimagna subito, ma giù. Ah va, c'è chi fa la valvola, ti voglio fare. Si riesce a fare la valvola come ti dico io, il caminetto si può trattare. A chi ti ripongo un trucco grosso, va di casa e ti dura un bel, compresa. La ciuffa a legna a Roma stessi, che ti la devi sapere pure da sotto, da respirazione, no? A chi anda sempre a quest'aria. Sulla l'aria è da chi brucia la legna in pochi secondi, la risella, poi come te. E quindi ti devi sapere pure ricurare, ma niente, non lo sa, e un quintale di legna te lo mangi in una vita. Detto che sì, non va vale questa specie di leva di ferro, un vero, lo tipo di gatto della condotta. Ehi, a capo, e chi su l'uriculeggi, no? Insomma, va per aggiungere su cosa, che poi di punti mi capiteggia i verdi pure pendeva e cose, mi voglio cucinare qualche cosa, ma sono un po' di pochi tipi, e quindi è tutto diretto, capito? Ma poi voglio fare questa valvola, che è una cosa pure più... si consuma di manco, comunque, se ne fa un ceppo, sicuramente sarà lì, comunque. Si fa faccio qui su coso che si può tenere qui speso, pure, compreso, che poi si può fare tutto attorno. Però vi vorrà fare con la cucina più da poco. Non può fare la cucina. Io vai come seguito su Facebook. A un caldo una nave d'arrivo, appunto la gadria a fianco, e mano a mano la visitava la gadria, con un tronco di là è voluta un metro e mezzo. Come sei già? E la Simenea, la che ha cominciato da Lugizzani, è stato un tronco da un metro e mezzo, si era appunto un capo della Simenea, e la cosa è nata la gadria, ogni volta si impegna la gadria. E sta di allumento. Certo, una chiesa di fuoco, va via. Corri, vero. Si occupa tutta la casa, la si può prendere. Ma è molto sega, non ha visto. Oio. I maragni non si vedono da niente. Un vecchio capolo di un coso che veniva prima di un gobo, gli ha fatto uscire tutti pure ai capi. Oh, io manco male non seri, no, che hai che essere pura. Raccontate un po' di gente. Oh, io ti do in ogni maniera se ne vede. Oh, io non ho giocato mai alcuno, mi di vaccino. Mi sono, come si dice, andato incontro ai medici. Dici, io non le faccio, fedi più voi. Se il vostro mi dovete firmare, voglio che vi dite la responsabilità. No, no, ma qui, ma lì, e allora non è fatto, perché la giudizio, il decreto di legge dice che nessuno è obbligato a fare qualche medicina senza la sua coscienza, e allora non è vostro. Eh sì, io con i cittadini invece che ha fatto due vaccini, e si è affidato Roma a testi. Io sono, io non ne posso, lo sai che ha applicato ciò, no, no, no, no, assolutamente, non so che sai cosa mi sei punendo in cui fa me, no, no. C'è tutto il mio discorso di occupazione, già, ci danno gli altri, è pure i vaccini, è pure i vaccini, che cosa devo portare a fare sul vaccino, magari è, così come si gioco magari non è finito, però questo vaccino che me lo butta a gente, mi prendi, e tu vai non me ne vuoi. E infatti è così, perché io ho un problema della sera, di tutti i vertebre, che male quattro riduttori, c'ho il sistema nervoso. Nella zona lombare io mi ributti i capisogatori e fare che hanno tutto in cortocircuito di nervi. Io non è facile che ci sia un problema ai nervi con questa schiena. Che c'è da quel bigiureggio che c'è la biglia da guccia. Ma no, ma vedi che no, no, no, no, esiste tutti i medicini, ha avuto un esperimento, c'è stata sempre nessuna cosa scritta che fa di bene, non è biglio. Non è biglio a te, ma c'è un problema, ma non ne voglio. Alla fine ti lascio mandata pure in affanculo, non mi ha più detto nulla. Vabbè, Giuseppe è un esempio di convincita che vuole sperimentare, come ti hai detto tu, è vero. Ma mi è giunto un dubbio al giudizio, cazzo. Su 5 che sono andata, hanno fatto i vaccini, su 5 se ne hanno impigliata, su cazzo di gruppi. E manco male, bene o male, vabbè, mi sono rimasto un po' separato, dai. Bene o male, non ragazzo nulla, a me a parte di ho passato, devo essere la polmonite, non me ne sono capitato, e aveva messo grande torre da respirare, penso che poi una cura che va giù un'infiammazione. Anche non me ne sono capitato, non mi ha dato crepa, non mi ha dato nulla, avevo messo pure questa cosa. A parte che ho avuto pure, mi sono avvisato che ho avuto un incidente grande, perché ti fa una moto. Nulla, adesso quando andare mi sa quella stata il piumone. E ieri sono avvisato che abbia passato il campo la polmonite e va a vivere sempre a Matteo. Una volta con quindi la cura, tu sei, devo andare a fare il cattà, speriamo che non sia realizzato. No, già non sarà niente di grave, chissà, avanti faranno qualche ciclo di antibiotici e devi dire, va di più così, che non agiano nei componenti come si può essere l'alcol, la birra, il vino, queste cose, che se non stare già nei rubini, due non avessi a tappurare il rubino e di là. No, io mi no, che la sede vabbè, la B la giusto che non posso dire nulla, quindi bene o male, non, problema non c'è. Mi stamani sono andate, mi ho pigliato, non ho toccato le sigarette, vabbè, non ti voglio di farli, due sigarette mi sono fumate. Però mi ho pigliato la sigaretta elettronica che non ne voglio più toccare, mi sono cascato, guarda, cazzo, sono stato a 60 anni, sono stato da quella sera, tempo, buia. Ti viraggio che hanno danato che dovuto campare. E viraggio buco io questa sigaretta elettronica della Kiwi Sparo Stack, lavano un momento questi cazzo di giano. E mi ho comprato il coso della Roma alla fragola e al kiwi. E la Matteo, ti chissà che sei giubilato? No, è giubilato tutto normale. Devo, me la tende chi sta cura di cortina? Sì, non posso più fumare, non voglio più fumare, mi tende cura di cortina, no, no. Mi sono mai fatto dare un po' di trattore. Oh, importante è un fatto psicologico, come già. Sì, la so con fumenti ed è come se si tocca fumenti la sigaretta, né più né meno, la verità. Ho capito tutto che era prima lì, vabbè, stamani un po' caretto mi ha dato il coso e la bugia, sai, quando si è abituato a pisciare la tazza di volato sul caffè, il mangiano, tira, come si danno di sì. E ancora non capivo la macchinetta, però, e tanto più sigaretta me la fumo anche di sì. Così so io, ma chi lo mangiano io, ma se c'è, mi piglio un caffè, magari mi mangio una brioscia. Alla fine vado i gattini e mi porto una sigaretta di tabacco, mi porto. Io mi compro quel tabacco naturale della, come si chiama, la bustina è blu e mi fitto a Pannapoli, a parte di Luigi. Comunque è un tabacco che tipo praticamente ne viene cavato dalla pianta e quando si asciuga rimane tipo un tabacco ed eva, non era tipo un Marlboro che è tipo industriale, fa un bel ricordo. Il Pueblo Blu mi dico io, Pueblo 3. Buffa meravigliosa! Come la vuoi questa brioche? C'è un cornetto, una marmellata. Ero visto giallo, lo Pueblo mi ha visto giallo, è un bel posto, oh yeah. No, meglio nuta. Buffa meravigliosa! Cosa ne mangiamo oggi? 4 giri di banca! Hai pagato vino! Chi vedi poco? Chi vedi poco? Bene va, ma cosa sei? Con il tuo sì? Sì, allora. Oh, io, e se non ci sono tutto, se no che cazzo lo puntatore è un disastro. Andava ben ascoltato, forte e chiaro come il generale lì. Yes. Va bene, stasera cena, rombo, prezzemolo e pomodorini. Va bene così. Adesso sigarettine e poi si entra in radio. Riprendete, vai Gianni, QRX per me, sono andato a salutarti. Vai Gianni, ben sentito, riprendo subito. Gaffa, va bene, buon proseguo, già siamo qua. E d'oro di due la zanzara, Io fa male, hai visto? Cosa? Anche su 10 il programma la zanzara, che è tutto canto gabirucci, tutto attuato e salto. E sono i bastardi, Antonio, la stavolta abbiamo mandato un video. Cazzo, ma amiche, chi c'è bandiera rossa a me? Vai, comunista è. No, vi credi? Ha detto che nella Bettino ha fatto 2 anni dei carabinieri, le passate a voi l'hanno imbigliato, ma mancante se l'hanno fatto pure. Che sono altro mancanti, eh? Io l'ho mandato un strumento che praticamente... Ma vi dico che fianco di poco, mi ha detto. E cosa ha combinato? Che dal suo pene dice che puzzava di poco. Quindi non manca le sempre se ne ha cavato da sola per fare lo studio. L'ho visto anche, che lui ha detto no, gira dall'altra.